Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. In Europa circolano circa 650.000 veicoli refrigerati a cui è affidato il trasporto dei beni deperibili, soprattutto prodotti alimentari. Ognuno di questi mezzi, si va dal tir carico di quarti di manzo al furgoncino della mozzarella, consuma tra i 10.000 e i 100.000 litri di gasolio l'anno, dei quali circa il 15-20% a carico dell'apparato di refrigerazione. D'altronde, insomma, è ben noto che un'auto col condizionatore acceso consuma di più. Da tempo si sta ragionando sulla possibilità di mettere a punto un sistema di refrigerazione che per funzionare non abbia bisogno di sottrarre potenza al motore, ma che possa invece ricavare l'energia necessaria dalle grandi quantità di calore di scarto che escono dal tubo di scappamento, più di metà dell'energia contenuta nel carburante. Parliamo potenzialmente quindi di risparmiare 2.000 litri di gasolio l'anno con i mezzi più piccoli e addirittura 20.000 con quelli più grandi. Mettere in pratica però questa idea si è rivelato problematico. Finora infatti non esistono sistemi commerciali di questo tipo. Ma l'ENEA, che è la nostra principale istituzione di ricerca sui temi dello sviluppo sostenibile, ha individuato una possibile soluzione. Ne parliamo con Marzia Pentimalli, ricercatrice del Laboratorio di Chimica e Tecnologia dei Materiali del Centro di Ricerca della Casaccia. Buonasera Pentimalli. Buonasera, dottor Melis. Senta, intanto, allora ci spieghi questa cosa, perché lì voi partite dal calore, i gas di scarico sono senz'altro sopra i 100 gradi, per produrre il freddo. Ci vuole un frigorifero diverso da quello che abbiamo a casa? Certamente. Il sistema che noi proponiamo di utilizzare sfrutta la proprietà di alcuni metalli che hanno la caratteristica di assorbire e rilasciare un gas in particolari condizioni. Quindi la nostra idea di sviluppo di questa pompa di calore a stato solido è molto semplice. Si tratta di un ciclo in cui noi poniamo il materiale a contatto direttamente con il vano che vogliamo raffreddare e il materiale in certe condizioni sarà in grado di assorbirne il calore, abbassandone così la temperatura. Ecco, comunque c'è tutta una gamma di tecnologie che si parla di frigoriferi ad assorbimento, che addirittura sono stati inventati prima di quelli elettrici, no? Che usano il calore come fonte di energia per produrre il freddo. Sì, senz'altro, ci sono molti sistemi a tecnologia nota, ma il problema di applicarli con un veicolo infatti in movimento è legato sostanzialmente al problema di non avere un fluido in movimento che appunto sul veicolo è un problema. È un problema da gestire, sì. È un problema da gestire. Quindi ci vuole un ciclo frigorifero intanto che non usi dei liquidi che circolano, questo è un primo problema. E questo esclude tutti i sistemi come per esempio il sistema d'ammoniaca o bruno di litio. Mentre poi ci sono anche altri problemi che riguardano la compattezza e anche la potenza frigorifera emessa, e nel nostro caso col sistema che proponiamo questi problemi sono ridotti perché gli ingombri sono minimi e possono essere ottimizzati per l'applicazione. Cioè qui il problema non era inventarsi questo strano frigorifero che fa il freddo col calore, perché in realtà ne esistono varie tipologie. Il problema è che nessuna di quelle tipologie era adatta a finire su un automezzo. Quindi diceva, avete identificato una soluzione ben precisa. Quali sono i principali ingredienti, diciamo così? Sì, dunque i nostri ingredienti sono dei materiali pesanti, sono dei metalli a base di lantanoidi che appunto hanno la caratteristica di assorbire un gas, nella fattispecie l'idrogeno, e noi con la nostra esperienza sul processing chimico-fisico di questi materiali abbiamo individuato quelli più adatti all'applicazione particolare che proponiamo e li abbiamo processati in modo tale da renderli maneggevoli e quindi integrabili nel sistema prototipale che stiamo costruendo. Che state costruendo. Ecco, c'è un progetto europeo, si chiama HPACS, all'interno del 7° programma quadro, ed è appunto mirato a sviluppare questa specifica tecnologia, e lei è la coordinatrice di questo progetto. Quindi qual è l'obiettivo e a che punto siete? Dunque, il progetto è alle battute finali, perché è un progetto che è durato 2 anni, nel quale abbiamo collaborato con un'altra azienda del Tecnopolo Tiburtino, Labor SRL, e 4 piccole e medie imprese, di cui 2 italiane e 2 straniere. Il nostro obiettivo, che attualmente in fase di testing, è cioè sta circolando per strada il vostro obiettivo? Esatto, sì? Esatto. Il nostro obiettivo sta circolando nella forma di un piccolo Fiat Doblò con i montato, sul quale è stato montato il nostro sistema prototipale, che stiamo testando per dimostrarne l'efficacia e speriamo che in futuro possa essere diciamo scalata la tecnologia e applicabile magari a sistemi di dimensioni più grandi o certo. applicazioni che prevedono temperature di esercizio leggermente diverse, magari più basse o più alte per il condizionamento diciamo delle persone, dell'abitacolo. Grazie, grazie Pentimalli e in bocca al lupo insomma. Grazie a lei, crepi il lupo. È tutto, a lunedì.